pensión y a escarza memoria. Chi mangia una volta, chi tira al bersaglio, chi vuole l'aumento, chi gioca a Sanremo, chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno, chi ama la zia, chi va a porta via, chi trova scontato come tutto ha trovato. Blue.